in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno più o meno tutti la stessa apertura, cioè da una parte l'acuirsi, come abbiamo visto è stato un crescendo in questa settimana del dibattito sulla legge che cambierà il Senato, cambierà il Parlamento, porterà alla fine del bicameralismo perfetto, almeno nelle intenzioni, perché il Corriere della Sera titola appunto fronte per tornare al Senato elettivo, Renzi fa muro. Ieri la direzione del PD era stata convocata sulla carta per parlare di Sud, ma si è finito per parlare anche di questa imminente riforma costituzionale del Senato. La fotonotizia del Corriere della Sera però è dedicata, come quella di tantissimi altri giornali, a queste foto che sono arrivate dalla Libia, dove mercoledì è affondato il barcone, e queste prime immagini mostrano appunto tutte le persone che, una volta rovesciato il barcone, erano alla deriva. Sappiamo che sono già stati recuperati alcuni corpi, ma è circa 25-30, ma il numero dei dispersi è altissimo. L'articolo di Marco Imarisio, migranti coi bambini tra le onde. Vi segnalo dalla prima pagina, e poi molto gustosi entrambi gli articoli, a pagina 14 e 15 di Massimo Gaggi e Maria Laura Rodotà, sul primo dibattito tra i candidati repubblicani, quelli che saranno probabilmente i candidati repubblicani alle primarie per decidere chi parteciperà, chi sarà il candidato alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in programma in novembre del 2016, pensate, ma la campagna elettorale è ormai iniziata sia da una parte che dall'altra. C'è stato il primo dibattito su Fox News, che è un canale televisivo decisamente schierato dalla parte della destra americana, quindi dei repubblicani, e però una delle prime buone notizie, insomma, soprattutto giornalistiche possiamo dire, è che tutti hanno notato come i giornalisti si siano comportati in modo molto imparziale nei confronti dei primi 10 candidati, perché farli confrontare tutti e 17 era troppo, quindi c'è stata questa prima tranche dove ha un po' lo show è stato un po' condotto da Donald Trump, che però dopo, nei sondaggi fatti subito dopo, non è risultato il vincente del dibattito. E allora il titolo: Trump provoca e picchia ma non vince, il tycoon offende l'elettorato femminile, la disfida tra repubblicani va al giovane Mark Rubio. E appunto trovate poi gli articoli a pagina 14 e 15. Ma passiamo subito al Sole 24 Ore, che ha un'apertura diversa ma secondo me è molto importante. Le materie prime sono uno di quegli argomenti di cui si occupano appunto pochi giornali in modo costante, il nostro è uno di questi, ma sono in realtà uno veramente dei fattori economici anche alla base delle ultime crisi. Pensiamo appunto al ruolo che ha avuto la caduta del prezzo del petrolio nell'uscire dalla crisi, e anche ad altri grandi otto volanti dei prezzi delle materie prime, come per i metalli preziosi, in primis l'oro, di cui abbiamo parlato. E da qui il titolo di oggi del Sole 24 Ore: petrolio in caduta libera, il Brent sotto i $49, che è veramente un record. Questo potrebbe avere delle ripercussioni, le ha già avute di fatto, sulle compagnie petrolifere americane, che comunque, dovendo appunto vendere il loro prodotto a un prezzo molto inferiore, hanno già cominciato a licenziare anche nei mesi scorsi. E infatti l'analisi di Sissi Bellomo, che poi trovate a pagina 3, si intitola "I big americani lottano per sopravvivere". C'è uno schema che fa vedere come sia cambiato il prezzo del petrolio negli ultimi 6 anni. In questo momento siamo vicini ai minimi appunto da 6 anni a questa parte. C'è anche un altro commento di Davide Tabarelli, esperto di materie prime e di petrolio in particolare: un ribasso ormai strutturale. Per quanto riguarda il Senato, il commento è di Fabrizio Forché, perché questa battaglia che si preannuncia sulla riforma costituzionale, pensate che sono stati annunciati 513.450 emendamenti, che è un modo per fare ostruzionismo. E quindi il titolo dell'analisi di Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore: Senato, per favore almeno risparmiateci il circo. E poi, come sappiamo, è stagione di semestrali, quindi ci sono anche molte, poi nel dorso di finanza, molte semestrali di ieri, ancora altre semestrali di soprattutto di banche, per esempio Unipol Sai, quindi un colosso bancario assicurativo, profitti record nel primo semestre, di nuovo questa parola record, perché le ultime semestrali delle banche sono state di fatto tutte da record. In edicola con il Sole, come ogni sabato, Plus 24, che oggi si concentra soprattutto sulla possibilità di investire su due listini di paesi cosiddetti periferici dell'Unione Europea, cioè noi, l'Italia e la Spagna, quindi periferici in azione, buone le prospettive per i due listini, la PIL di Milano supera quello di Madrid. Quindi un'analisi per chi volesse investire appunto in azioni su uno di questi due listini, quale scegliere, perché, o magari sceglierli tutti e due. Vi segnalo poi, magari ve lo ricordo anche domani, che è il mio ultimo giorno qui alla rassegna stampa, che da settimana prossima, oggi e domani è sospesa, ma da lunedì torna la guida pratica per la famiglia dell'estate del Sole 24 Ore. La prima settimana, l'abbiamo visto, è stata tutta dedicata a casa e condominio, la seconda invece sarà dedicata a lavoro e pensioni. Lunedì il primo appuntamento, da una parte per il lavoro le regole per le nuove assunzioni e dall'altra parte per le pensioni le regole per i nuovi assegni. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso dedicata al Senato, riforme, migliaia di emendamenti per fermare Renzi, e poi anche in questo caso la fotonotizia è quella del naufragio al largo della Libia, che è successo mercoledì. Poi sapete che ieri c'è stata la notizia dell'arresto di 5 scafisti e dell'arrivo in Italia dei primi profughi sopravvissuti. E poi c'è un accenno, ma lo vedremo sull'Avvenire, soprattutto alle parole del Papa di ieri, che commentando questo fatto, ma naturalmente tutti quelli che abbiamo visto in questa estate, soprattutto, che naturalmente la stagione in cui gli sbarchi aumentano, il Papa: contro i migranti c'è una guerra, secondo il Papa, è proprio quell'atto di respingerli. Vediamo la prima pagina dell'Unità, ve la cito oggi perché avete visto, no, il tema di ieri c'è stata la direzione del PD, lo abbiamo detto, era stata convocata per il Sud, ma quello che è venuto fuori è poi che c'è appunto questo pericolo per la riforma del Senato, che viene dall'opposizione, perché è la Lega che ha annunciato queste centinaia di migliaia di emendamenti che naturalmente bloccheranno l'esame della legge in Parlamento, ma c'è sempre anche la minoranza Dem, che continua a volere, con Pierluigi Bersani in testa, una trasformazione del Senato, che avrebbe dovuto diventare assolutamente non elettivo, invece si ricomincia a chiederlo almeno in parte elettivo, cioè che noi cittadini si continui a votare per i senatori. Ma l'Unità sceglie di titolare solo sul Sud, zero chiacchiere. Comunque trovate tutto l'intervento di Matteo Renzi sull'Unità, inizia a pagina 1 e continua a pagina 10. Sul Senato, un piccolo titolo nella parte bassa della pagina: Senato elettivo si allarga al fronte, il Premier ho i voti. Anche la fotonotizia, anche in questo caso, è dedicata al naufragio al largo della Libia del barcone con i migranti, e il commento è affidato al direttore Erasmo D'Angelis. Salvini guarda questa foto. Il Messaggero a sua volta titola su questa emergenza che è venuta fuori ieri sulla riforma costituzionale: avanza al fronte del no. Si rafforza l'asse anti-Renzi, caos sul Senato elettivo, la sinistra del PD con Forza Italia, Movimento 5 Stelle e SEL. Ma Palazzo Chigi appunto ha detto: la maggioranza non mancherà. Se i renziani, non Renzi ma i renziani, hanno poi spiegato che se il governo dovesse andare sotto, cosa che secondo Renzi non succederà, allora veramente si potrebbe andare a elezioni, al voto anticipato. Questo è un po' il retroscena raccontato dal Messaggero. La fotonotizia però è dedicata a quello che è successo ieri sulle autostrade, con queste code di 13 chilometri, l'avete sicuramente sentito. La Stampa ha a sua volta la notizia la fotonotizia del naufragio al largo della Libia, e poi ha raccolto, gli inviati della Stampa hanno raccolto alcune testimonianze dei sopravvissuti, respingere i migranti, e poi anche qui vengono citate le parole di Papa Francesco: respingere i migranti è un atto di guerra. Il titolo della Stampa però in realtà è dedicato a una vicenda che è venuta fuori ieri e che è stata commentata dal Ministro delle Infrastrutture Delrio. Sono infatti sono stati stanziati solo 32 dei 112 milioni previsti per la TAV e per le compensazioni della TAV, cioè i soldi destinati a tutti quei comuni il cui paese verrà stravolto dall'arrivo dei treni ad alta velocità. Quindi questi 80 milioni spariti hanno scatenato subito la reazione, la rabbia, scrive la Stampa, dei sindaci e degli abitanti di questi comuni. Però Delrio, il ministro, ha assicurato: rispetteremo gli impegni. Vi segnalo il Secolo XIX, che ha lo stesso schema, cioè la fotonotizia dalla Libia e la notizia del Senato, ma perché c'è un aggiornamento sulla vicenda del raid omofobo, quel ragazzo che è stato picchiato su un autobus nel cuore della notte perché scambiato di fatto per gay, e per questo picchiato. E su questo raid omofobo l'aggiornamento che ci dà il Secolo XIX, il raid è avvenuto a Genova, quindi è anche per questo che il Secolo segue la vicenda con particolare attenzione. Commissione, ci sarebbero alcuni stranieri. Sono sette i ragazzi che hanno, dovrebbero essere sette i ragazzi che hanno picchiato quest'uomo, e i feriti, cioè sono, i video hanno confermato che appunto due potrebbero essere stranieri, ma in realtà non si sa ancora nulla di certo sull'identità di questi sette, di questa gang di sette picchiatori. Forse ricorderete, ieri vi ho segnalato quella notizia curiosa del principe Alberto di Monaco che è andato a Genova per una cena di beneficenza, per un evento di beneficenza i cui proventi avrebbero dovuto andare alle vittime dell'alluvione a Genova. Dunque, non soltanto non c'è stata alcuna beneficenza da parte di questa Fondazione Alberto di Monaco, ma si conferma che la cena di gala che si è tenuta in un ristorante molto famoso vicino a Genova, Manuelina, totale del conto 15.000 euro, non è di fatto stata pagata. E oggi, tra l'altro, questa notizia la trovate anche su altri giornali, ma Il Secolo giustamente la dava ieri per prima. Veniamo alla prima pagina dell'Avvenire, la foto, sopra la foto di queste persone al largo che cercano di stare a galla, perché il problema è che la maggior parte di loro non sanno nuotare, quindi il barcone si rovescia, anche se l'acqua non è fredda come potrebbe essere d'inverno, non riescono comunque a sopravvivere. Il titolo: respingerli, punto interrogativo. Il Papa, un atto di guerra, ricacciare i migranti. E poi vi leggerò subito dopo la pausa, ci lasciamo per un paio di minuti, l'editoriale del direttore, una parte dell'editoriale del direttore di Avvenire, Il cinismo uccide. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina dell'Avvenire, che sopra alla foto dei migranti al largo delle coste libiche, dopo che il barcone su cui cercavano di raggiungere l'Italia si è rovesciato, scrive la parola respingerli col punto interrogativo. Il cinismo uccide, vi dicevo, l'editoriale del direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio, ve ne leggo l'ultima parte. Siamo stanchi di questa politica vuota di ideali e di sagge iniziative che gioca a svuotare il cuore della gente per riempirlo di risentimento. Di questi politici che magari, come ieri Matteo Salvini, sembrano aver imparato un po' di formali buone maniere, ma continuano a chiamare sprezzantemente clandestini altri esseri umani. Insistono a spacciare le favole false, feroci e tristi dei migranti trattati da signori, a scapito dei poveri di casa nostra, e non si vergognano di presentarli, a giorni alterni, come sfaccendati assoluti o come pericolosi rubalavori. Siedono in Parlamento, hanno diritto di parola e di voto in Europa, governano, si decidono a fare ciò che è giusto e la smettano di parlare a vuoto. Per far finire affari e tragedie sulla pelle dei perseguitati e dei poveri non servono bombe, servono corridoi umanitari presidiati dall'ONU e, nel nostro caso, dall'Unione Europea. Servono idee chiare e la consapevolezza che il cinismo uccide tanto quanto esplosivi, mitra e coltelli. E il manifesto si rifà nel suo titolo proprio alle parole di Papa Francesco e titola Crimine di guerra. Respingere i migranti è un atto di guerra, equivale a uccidere. L'attacco del Papa sui respingimenti dei musulmani nel sud-est asiatico arriva dritto al cuore dell'Europa, contro i muri alzati nei confronti dei profughi. In Sicilia le agghiaccianti testimonianze dei sopravvissuti dell'ultima strage. Perché appunto questo appello del Papa, lo precisiamo, è stato rivolto ieri in un incontro con giovani cattolici di tutti i paesi, ed era riferito in particolare al popolo dei Rohingya, che sono è al loro straziante peregrinare per mare e per terra, così scrive ancora l'Avvenire, tra Myanmar, Bangladesh, Thailandia, Malesia e Indonesia. Ma appunto, come scrive il manifesto, poi questo appello naturalmente vale per tutti i migranti, a maggior ragione per quelli che cercano di raggiungere l'Unione Europea dalle coste dell'Africa, della Libia in particolare, ma sappiamo che vengono da tanti altri paesi. Il Libero sceglie un titolo completamente diverso, che riguarda l'esame della legge sulla legalizzazione delle droghe leggere. Più che liberalizzazione, sono di fatto liberalizzate, perché purtroppo in tutti i posti, a cominciare dalle discoteche naturalmente, queste droghe si possono comprare, quindi il problema è in qualche modo legalizzarle. E allora il titolo di Libero: il governo si fa le canne, stato spacciatore, i parlamentari del partito del premier e i grillini presentano la legge per liberalizzare la cannabis, e già si fanno i conti. Ripeto, su questa parola c'è un po' di confusione, nel senso che se guardiamo bene, se ragioniamo, di fatto la cannabis è liberalizzata, come purtroppo tantissime altre droghe. Ne è illegale l'uso, ne è illegale lo spaccio, però di fatto la possiamo già trovare. E il nodo, come se ne è discusso anche a spunti di vista all'inizio della settimana, il nodo è valutare bene qual è il peso della criminalità organizzata nella gestione della vendita vendita delle droghe, del traffico e della vendita delle droghe. Comunque già si fanno i conti, scrive Libero, perché mettendo una tassa su questa cannabis legalizzata, un po' come già esiste sulle sigarette e sull'alcol naturalmente, ci sarebbe un incasso tra i 6 e gli 8 miliardi e gli 8,5 miliardi, ma così si innesca una gara al ribasso con i pusher per tacere dell'ipocrisia. E poi vi dicevo che anche Libero riprende la vicenda del banchetto non pagato dal principe. Filippo Facci se la racconta con la sua solita ironia. Alberto a Genova ha lasciato un conto di 15.000 euro, il principe di Monaco non paga il banchetto e viene denunciato, perché come abbiamo detto ieri i ristoratori si sono proprio rivolti alla magistratura per cercare di recuperare i loro soldi. Il Fatto Quotidiano ha un titolo che riunisce un po' due notizie. Il titolo è Il Sud dei nuovi schiavi, perché da una parte c'è la vicenda dei migranti, perché appunto i primi sopravvissuti dal naufragio al largo delle coste della Libia sono arrivati in Sicilia e hanno raccontato, marchiati, seviziati e poi rinchiusi nella stiva, ne hanno uccisi 200. E tra l'altro ricordiamo che gli scafisti libici sono già stati arrestati. E poi dall'altra parte, per questo vi dicevo due notizie insieme, ne abbiamo parlato ieri, la morte del bracciante in Puglia e quindi un reportage dalle campagne della Puglia, dove in questo momento si raccolgono soprattutto pomodori, noi le braccia del granghetto tra caporali e una fine da bestie. Poi un aggiornamento sugli interrogatori del grande accusato e ora accusatore di Mafia Capitale, Salvatore Buzzi, continua a parlare, continua a lanciare accuse a tutti e dice: diedi soldi a Veltroni, Alemando, Marino, Berlusconi e Renzi per avere tutto. Il Giornale ha un titolo ancora diverso che riguarda gli stipendi della Camera. Abbiamo sentito nei giorni scorsi come purtroppo non si sia riusciti a ridurre nemmeno quelli dei commessi della Camera e come un barbiere della Camera guadagni cifre altissime, ma tutti alla Camera, dagli uscieri ai barbieri, naturalmente ai parlamentari, guadagnano cifre che sappiamo essere le più alte in Europa. E allora il Giornale, il PD taglia i tagli e regala 47 milioni alla casta, salta il tetto ai salari dei dipendenti, questo appunto è notizia di qualche giorno fa, e poi c'è un collegamento con l'altro fatto che riguarda il Parlamento, in questo caso non la Camera ma il Senato, appunto con questo rischio per la riforma che sarà poi discussa quando i parlamentari dopo i loro 33 giorni di vacanza rientreranno, e se si contano bene i senatori della minoranza PD e come abbiamo visto anche su altri giornali quelli dell'opposizione, cioè Movimento 5 Stelle, SEL e Forza Italia, sarebbero 176 senatori contro. E poi vi segnalo una sorta di controcanto all'appello fatto da Papa Francesco, e ve lo segnalo perché è un articolo di Renato Farina, che è cattolico, esponente di Comunione e Liberazione, e però un articolo anche che offre spunti di riflessione, però ripeto è una sorta di controcanto a quella che viene definita la crociata di Papa Francesco. Vi leggo le prime righe, poi continua a pagina 7. Respingere i profughi è un atto di guerra, dice il Papa. Anche pronunciare questa sentenza è un atto di guerra. Francesco ci tira la bomba in casa, in Italia ma anche in ciascuna coscienza. Quello del Papa non è un giudizio morale da cui ci si può scansare, ha la pretesa di essere una constatazione. Tradotto in un tweet: se cacci i profughi stai facendo la guerra, poi puoi sostenere che è giusta, ma è guerra. Ecco, il Papa ha ragione, siamo nel bel mezzo di una guerra mondiale a pezzi, come usa dire lui stesso. Il problema è capire che ruolo giocare in questo conflitto sanguinoso per farlo finire. Esiste, secondo Max Weber, l'etica della convinzione o dei principi e quella delle responsabilità. Quella della convinzione impone a chi è figlio della civiltà cristiana di accogliere chiunque sia in difficoltà a costo di sacrifici, ma soccorrere. Domando, siamo sicuri che anche questo non sia un atto di guerra? E come vi dicevo, poi le riflessioni di Renato Farina continuano a pagina 7 del Giornale. E vi segnalo anche la prima pagina della Gazzetta, che è dedicata alla partita che appunto sarà alle 14 nostre, questa Supercoppa italiana che vedrà Juventus e Lazio opposte. Poi c'è un aggiornamento anche sui mondiali di nuoto, perché si stanno per concludere, potrebbero arrivare altre belle sorprese per l'Italia, dalla pallanuoto maschile che cercherà di conquistare la medaglia di bronzo e anche dalle ultime gare di stile libero, dove appunto alcuni nostri nuotatori hanno ancora qualche chance. Vediamo le pagine interne. Dal Corriere della Sera vi segnalo un reportage di Luisa Pronzato dalle Marche, che ci racconta il modello Nero Giardini. Nero Giardini è un'azienda di calzature che si fa un vanto giustamente di produrre tutto in Italia. La storia è stata raccontata più volte perché effettivamente c'è una coerenza estrema nel percorso di questo imprenditore Enrico Bracalente, sulle pagine del nostro giornale Sole 24 Ore non molto tempo fa l'ha raccontato anche Paolo Bricco. Qui lo spunto è anche che ieri sono stati annunciati i risultati del primo semestre che sono buoni, quindi un caso Corriere della Sera titola "L'imprenditore e i suoi satelliti li ho costretti a credere nel futuro", un caso appunto di come comunque possa la manifattura in Italia possa funzionare e anche bene, nonostante, lo sappiamo, tutti i problemi dei costi maggiori, costi del lavoro, costi dell'energia. Veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, perché dicevamo la direzione del PD di ieri in realtà era stata convocata per parlare di Sud, e allora l'approfondimento di Manuela Perrone da Roma: Renzi lancia un master plan per il Sud, l'ha chiamato proprio così, dovrebbe già rientrare nella legge di stabilità, cioè sostanzialmente il budget dello Stato che verrà annunciato dopo l'estate. Punta anche ai fondi dell'Unione Europea, si dice sempre che non riusciamo a usarli bene, quindi a partire da quei 12 miliardi che dobbiamo spendere entro la fine dell'anno. Il commento è di Dino Pesole: oltre gli annunci la partita si vince con il controllo reale sulla spesa. E poi anche un reportage sulla questione che comunque riguarda la questione Sud e riguarda in particolare Bagnoli, la grande acciaieria. Ce lo racconta Mariano Maugeri: timone a Palazzo Chigi, ultima chance per Bagnoli, quindi una via, quella viene definita da Mariano Maugeri, quella dell'ex area industriale, una via crucis. Bassolino aveva deciso di riqualificarla completamente, non c'è mai riuscita, e ora si attendono nuovi piani per quest'area che potrebbe comunque essere una chance appunto per ridare vita a quell'area appena fuori Napoli. Un'interessantissima iniziativa del Sole 24 Ore lanciata da Isabella Bufacchi, un'idea, cioè di indicizzare i buoni del tesoro al PIL, una proposta del Sole 24 Ore, un nuovo titolo che potrebbe essere a metà strada tra il bond e l'equity. Il commento è affidato a questa idea a Robert Schiller, che è un premio Nobel per l'economia. L'ha intervistato la stessa Isabella Bufacchi, e Schiller risponde: un'idea valida e innovativa, l'Italia faccia da apripista su un'iniziativa simile. Come vi dicevo, nelle pagine di finanza tante semestrali, quelle delle banche, ma anche per esempio quella di Prada, che è il più grande gruppo italiano della moda e del lusso, nel primo semestre ha avuto ricavi per oltre 1,8 miliardi e è tornata a crescere del 4%. Dalla Repubblica vi segnalo questa vicenda, per me poi che proprio in questo momento sono davanti a un microfono, è impressionante leggere questa vicenda che viene dal Brasile: ucciso in diretta un reporter radio che accusava i corrotti, si chiamava Gleison Carvalho, era molto noto, e i sicari gli hanno sparato, sono entrati nello studio, come se entrasse qualcuno qui in questo momento, gli hanno sparato mentre conduceva il suo programma, si scagliava contro i politici locali dello stato di Ceará a 300 chilometri da Fortaleza, ci racconta la sua storia Omero Chai. E poi sempre Repubblica c'è un altro reportage di Andrea Tarquini, in questo caso 4 anni fa, forse lo ricorderete, sono già passati 4 anni, la strage sull'isola di Utøya in Norvegia, dove erano riuniti i giovani laburisti del locale partito laburista, e arrivò un neonazista, Breivik, che adesso tra l'altro è in prigione, condannato all'ergastolo, e fece questa strage. E quindi Andrea Tarquini è tornato in Norvegia tra i 1000 di Utøya nell'isola del terrore, che a loro volta loro sono tornati lì, siamo qui senza paura, oggi ha vinto la vita. La stampa continua quella serie di reportage dagli Stati Uniti su come sta cambiando il lavoro. E questo, quello di oggi, 2 pagine, pagina 10 e 11, a Youngstown, torna a vincere, con l'ex capitale dell'acciaio. Abbiamo parlato appunto proprio ora di come l'acciaieria sicuramente è un'industria pesante che ha perso smalto non solo in Italia ma anche in altri paesi. L'ex capitale dell'acciaio sposa l'industria high tech. Dopo 30 anni di crisi, la città dell'Ohio sfida la Silicon Valley con le imprese che sviluppano software e laboratori di stampa 3D. Purtroppo era l'ultima segnalazione, in realtà ve ne faccio ancora una perché è veramente curiosa, una pagina del Messaggero dedicata a questa pazza idea del dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, che vuole cambiarsi il fuso orario per differenziarsi dalla Corea del Sud, mezz'ora di differenza, e quindi la guerra del fuso fai da te. Ci lasciamo per il traffico, ci ritroviamo subito dopo, ma per la rassegna europea. Oggi per i giornali italiani purtroppo non ho tempo di farvi altre segnalazioni.